di Enotica al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, settima edizione dal 17 al 19 di marzo, una tre giorni. Ne parliamo con Chiara. Ciao Chiara. Ciao Federico, ciao a tutte. Allora, raccontaci un po', intanto per chi non conoscesse, di cosa si tratta, cos'è Enotica? Allora, Enotica è il festival del vino e della sensualità. È molto difficile non conoscerlo, eh? Però diciamo che siamo... Può succedere. Può succedere. Allora, da 7 anni a Roma, il Forte Prenestino, che è noto spesso per creare avanguardia culturale, no? Tantissime manifestazioni, dal crack, dei fumetti dirompenti, insomma, ha portato avanti questa Enotica. Enotica che è una manifestazione che unisce quello che è il consumo critico, cioè la rivoluzione quotidiana che parte da quello che mangiamo e quello che beviamo. Il consumo critico per quanto riguarda il vino, quindi è l'esaltazione del vino naturale. Il vino naturale, ovvero non prodotto ovviamente in maniera industriale, ma dai contadini critici che non utilizzano alcun concime chimico, e dalla coltivazione all'imbottigliamento. Quindi un vino che rispetta l'ambiente e che è anche trasparente non solo sui metodi di produzione ma anche sul prezzo, perché a Enotica in questa tre giorni si potranno degustare i vini appunto di più di 60 contadini vignaioli autentici che non speculano sul prezzo di origine, quindi direttamente dal produttore ai consumatori che arriveranno al Forte Prenestino. Ok, senti, come si articolano queste tre giornate? Allora, il programma completo è sul sito enotica.net e questo lo diciamo così, certo. Poi si può andare a controllare gli orari precisi, soprattutto di quello che è il coprotagonista della manifestazione, quindi non solo vino ma anche tanto spettacolo dal vivo, teatro, cabaret e quest'anno tantissimi concerti. Venerdì e il sabato, quindi domani e dopodomani, il Forte Prenestino aprirà intorno alle 17 e proprio dalle 17 fino alle 22 ci sarà sarà possibile degustare i vini naturali e i produttori saranno tutti nelle 100 celle sotterranee e quindi pronti per all'interno di questo percorso sensoriale che si snoda proprio appunto nel piano di sotto del Forte Prenestino. Mentre tutti gli spettacoli e i concerti incominceranno dal tardo pomeriggio, però nella piazza d'armi, quindi nell'area a livello strada del Forte, dove c'è il palcoscenico allestito e che ospiterà tantissimi gruppi. Domani avremo Adriano Bono, dopodomani ancora Lili Primavera con il suo cabaret burlesque, e poi Cuz, Jim Puffer, e il programma completo appunto è sul sito. Ok, ci hai dato tutte le indicazioni, un abbraccio, ricordiamo l'appuntamento, settima edizione di Enotica al Forte Prenestino dal 17 al 19 marzo.